Allora, benvenute e benvenuti a Cabaret Extra Voltaire, ormai famosissimo podcast di Exalge in cui parliamo di drammaturgia femminile. Questa sera con noi abbiamo un ospite speciale. Direttamente dall'Irlanda, no, non è vero, da Vercelli. Ashling Lenti. Ashlin Lenti. Con questo è il ciclo. Esatto. Episodio 10. E direi che, come sempre, il format è che lasciamo leggere l'artista, quindi la drammaturga in questo caso, e a fine lettura facciamo un po' una discussione tutte insieme, a cui siete ovviamente tutti invitati a partecipare. Quindi ora lasciamo la parola a Ashling e niente, ci vediamo tra poco. Questioni tecniche. All right. Questo libro, così come ogni libro, prende vita grazie a un procedimento composto da 4 passaggi fondamentali. Gli stessi passaggi sono usati anche da ingegneri, scienziate, creativi e manager per risolvere problemi e realizzare prodotti e processi. Vi dirò di più. Usiamo gli stessi passaggi anche quando sperimentiamo un nuovo piatto in cucina. Non importa che voi siate alle prime armi o star dei fornelli, tutti e tutte seguiamo lo stesso copione per portare alla luce ogni progetto, piccolo o grande che sia. Talvolta le sue 4 fasi sono chiaramente distinguibili tra loro, altre volte lo sono meno, ma sono sempre loro. Vediamo quali. La prima fase si apre con un sogno, una sorta di visione. Il libro o il piatto di bucatini, bisogna sognarlo. Il sogno solitamente si riceve con una visione e dà un senso di vuoto per quel qualcosa che dovrebbe esistere, ma che ancora non c'è nel mondo. La visione, a dispetto del nome, è solitamente invisibile, proprio perché sta dentro la mente o dentro il cuore. Un desiderio inespresso così forte da sentirlo in ogni cellula del proprio corpo e diventa quasi palpabile. Ad ogni modo, ogni sogno che si rispetti è al principio una faccenda nascosta, vissuta nell'intimità e in questo senso oscura. Che il sogno arrivi da dentro di noi o da stimoli esterni, questa prima fase è caratterizzata da una ricettività fortissima ed è uno spartiacque perché essere e non essere non sono più distinguibili tra loro. In seconda battuta, ecco che dal vuoto nasce una pulsione. Ha inizio la fase della costruzione. Arriva il tempo di dare forma al vostro sogno, idearlo, pianificarlo, insomma, esprimerlo. È necessario far circolare idee nuove. Cosa mi serve? Cosa mi manca? Dove lo trovo? Quali passi concreti devo fare? È la fase ingegnosa, elettrizzante ed entusiasta. Proprio per togliere l'oscurità si definiscono gli obiettivi e le caratteristiche del nostro prototipo. È dunque una fase dinamica, estroversa e centripeta, perché andiamo a prendere tutto quello che ci serve e lo portiamo al progetto. Per andare alla sua conquista abbiamo bisogno di raccogliere e accumulare conoscenze, materiali, magari anche collaborazioni, tutto il necessario per fare emergere ciò che fino a un attimo fa era invisibile. E a questo punto, voilà, ecco qua, la terza fase è la prima manifestazione concreta, il primo risultato tangibile del nostro operare. Ciò che inizialmente era solo una visione e un lavoro in corso, ora ha preso una prima forma definita. Ma attenzione, una forma definita non equivale a una forma definitiva. Questo è sì un compimento, ma è a breve termine ed è incompleto. Come diceva Oscar Wilde, bisogna fare attenzione a ciò che si desidera, perché potrebbe manifestarsi. Reggerà il confronto con la realtà? Reggerà il confronto con il sogno? Questa fase è un nuovo spartiacque. Arriviamo infatti ora alla fase conclusiva, quella decisiva, la fase dello stress test. Bisogna tirare fuori le antenne e sottoporre il prototipo con la calma necessaria a test rigorosi prima di poterlo lanciare nel mondo. E la parola d'ordine è sensibilità. La fase della valutazione e di feedback è una fase di cernita e sacrificio. Ci accorgeremo che alcune cose funzionano perfettamente e che le dobbiamo conservare, che altre invece non funzionano come avevamo sperato. Avremo l'opportunità di migliorarle, oppure saremo costretti a lasciarle andare, anche se ce ne eravamo innamorati. È perciò una fase dinamica, introversa e centrifuga, che ha lo scopo di migliorare, purificandolo dalle imperfezioni, il nostro prototipo e di consegnarlo ai posteri. Da qui il ciclo ricomincia. Questo processo, usato da tutti i sapiens più o meno consapevolmente, più o meno bene, è chiamato Design Thinking Theory. Ecco, il ciclo mestruale, e non solo lui, si comporta alla stessa maniera. Come cambierebbe il tuo mondo se il ciclo mestruale fosse identico agli altri cicli che amiamo e rispettiamo? Anzitutto, potresti accorgerti che non è imprevedibile, misterioso, doloroso per natura, o che la ciclicità non è solo roba da donne. Come cambierebbe il tuo mondo se ti rendessi conto che il ciclo mestruale non ha come unico scopo la gravidanza, bensì il portare alla luce tutte le creature, siano esse idee, progetti o valori? Potresti iniziare a cavalcare le tue onde mensili con profondo piacere. Come cambierebbe la tua percezione del mondo se la fase premestruale fosse rivalutata come test sofisticato che ha lo scopo di eliminare ciò che è tossico? Potresti renderti conto che il ciclo mestruale non causa problemi, li rivela. Mestruale viene da men, menos, che in greco significa sia mese, sia luna, sia tempo, cioè il ciclo come misura del tempo. La parola nonna di mestruale è la radice linguistica men, che significa squilli di trombe, la capacità di pensare, misurare e valutare la realtà, mentre le parole cugine di mestruale sono mente, medicina, meditazione, mamma, misura, musica. Insomma, il ciclo, o meglio, la ciclicità è la misura della realtà. È anche una guida, una mappa, un metronomo per vivere la realtà. Questa, in definitiva, è la matrice ciclica. Lo spartito, la coreografia, il copione in quattro atti che può aiutare a comprendere e a navigare la realtà. Il ciclo mestruale è solo una delle tante manifestazioni della matrice ciclica. Le femmine adulte non sono le uniche ad essere cicliche. Lo sono tutti gli esseri umani, il mondo intero. Tenetelo a mente perché la ciclicità come chiave di lettura della realtà potrebbe davvero essere di grande beneficio a tutti. Ora vi presento i protagonisti indiscussi del ciclo mestruale. Estrogeno e progesterone. La loro danza scandisce il ritmo del corpo e ne regola le energie. Estrogeno è un tipo estroso, estroverso, ottimista, progettuale, piuttosto impavido e baldanzoso. A great flirt. Fanciullesco, farfallone, amante del gioco, del nuovo, del rischio. Pur di fare quel che vuole, ignora il freddo, la fame, il dolore. È un tipo sveglio, anche se rispetto a progesterone più ingenuo e giovincello, insomma un po' superficiale. Mai fidarti ciecamente delle cose che sembrano stupende quando estrogeno al suo picco. Goditele, ti fa bene ed è funzionale al tutto, ma non ci mettere la mano sul fuoco. Non tutto è oro quel che luccica. Estrogeno ama la seduzione ed essere sedotto, non solo sessualmente. Nonostante sopprima l'appetito, rende più irresistibili i piatti di cui sei più golosa. Ecco, è un golosone della vita, un bon vivant. Progesterone è un tipo intenso, saggio, profondo, sensibile. È calmo, è pacato, ma diventa una belva di fronte alle ingiustizie. Gli stracciano l'anima e l'anima del progesterone è grande come il mondo e profonda come il mare. Contiene tutto. Sente il dolore del mondo e lo fa suo. E tuo. Indizio per capire gli sbalzi di umore premestuali. Tecnicamente è l'ormone progestazione, colui che arriva dopo che l'estrogeno ha nutrito il nido per farlo ricrescere. Ed è colui che rende il nido capace di nutrire, nonché molto confortevole. È un ormone molto protettivo. Rende le pareti del nido morbide così che l'ovulo possa comodamente annidarsi come un seme nella terra autunnale. Insomma, se l'interno dell'utero è un nido, l'estrogeno è il carpentiere entusiasta con squadra e righello e il progesterone è l'interior designer e non solo, anche cuoco, cane da guardia, tato. Aumenta la fame e alza il metabolismo perché ogni nido che si rispetti è nutriente e caldo. Aumenta la sensibilità alle minacce di qualsiasi tipo perché ogni nido che si rispetti è sicuro e va alla ricerca della qualità delle reti sociali. Perché la gestazione umana avviene per 9 mesi nel nido dell'utero e per ben 11 mesi nel nido della specie umana. Il villaggio, diciamo. E questa coppia perfetta, di caratteri opposti e complementari, svolge un ruolo fondamentale in ognuna delle 4 fasi del ciclo mestruale. Mestruo, estro, ovulo, progesto. La fase mestruo ha caratteristiche simili alle fasi 1 di tutti i fenomeni ciclici. La mestruazione è morte, perché il nido si è sfaldato, ma è una morte generativa, vitale, che preannuncia l'arrivo di un nuovo ciclo. Così come lo sono l'inverno, il sonno, i polmoni vuoti. Il sangue mestruale è estremamente vivo e fertilissimo, ricco di enzimi e proteine. E cellule staminali, quelle cellule plenipotenziali che possono diventare tutto, da un cuore a un osso. Così come il sonno, l'inverno, la pausa a polmoni vuoti, anche mestruo è un processo rigenerativo che elimina ciò che ha fatto il suo tempo, purifica l'utero e permette di eliminare tossine e sostanze inquinanti. Come il sonno, è necessario creare uno spazio e un tempo di vuoto. Ogni mese creati una grande pausa o tante piccole pause, un momento in cui fai il meno possibile di ciò che non ti va di fare. Cerca di eliminare il verbo dovere. Se puoi delegare, delega. Se puoi ignorare, ignora. Ignora tutto tranne il tuo corpo. Ignora chi ti taccia di essere debole, viziata o di perdere tempo. Ti svelo un segreto. È chi dorme che piglia pesci. Il sonno è la cosa migliore da fare per essere brave persone. Fortifica e protegge il patto sociale, mentre l'insonnia rende le persone più corrottibili ed egoiste. È il primo alleato per un cervello intelligente e sofisticato. Mestruo può avere gli stessi effetti profondamente creativi e rigenerativi del sonno, se rimuovi i pregiudizi contro di lei e la liberi dalle costrizioni, crampi e dolori forti, così come flusso abbondante, altro non sono che spie di qualche problema, molto spesso legato allo stile di vita. Se provi grande stanchezza, assicurati che non ti manchi il ferro e chiediti se hai tirato come un mulo nel mese precedente e nella vita in generale. Già farebbe una grande differenza smettere di correre da una faccenda all'altra, da uno scroll all'altro, da un pensiero all'altro. Chiediti se per caso non hai introiettato la falsa credenza che se non sei produttiva ogni minuto stai rubando ossigeno e non stai guadagnando il diritto di esistere. È una trappola in cui ho visto cadere donne meravigliose. Sei in tempo, fermati. È tempo di staccare, ritirarsi, andare sotto traccia. È tempo di rilasciare le emozioni pesanti, accumulate di introspezioni, di liberarsi dentro e dagli impegni esterni. È tempo di sbrigliare la tua creatività senza obiettivi, senza intenzioni chiare, come nei sogni notturni. La seconda fase, estro, è dominata dall'estrogeno prodotto dalle ovaie che inizia in crescendo e ha il suo picco alla fine di questa fase. Gli effetti di estro sono graduali e in crescendo, perché ogni secondo atto è dinamico e cangiante. Questi effetti sono funzionali nel portare alla luce tutte le nostre creature e li puoi usare in tutti gli ambiti della tua vita. Apertura alla socialità e alle emozioni, con una propensione alla leggerezza sfarfallosa, ai networking, divertiti, riallaccia ponti, migliora l'espressione scritta e verbale, butta giù idee, scriviti, esponiti, esprimiti. Dagli esami universitari, ricerca del piacere in tutte le sue forme, compreso l'eros e il gioco. Fai cose nuove, anche piccole, come una coda di cavallo nuova ai capelli, annusare tutti i fiori mentre cammini verso l'ufficio, guardare il cielo stellato, uscire senza telefono temeraria, ballare sotto la pioggia. maggiore velocità di apprendimento, concentra le ore di studio, cimentati con quel maledetto libretto di istruzioni, prendi in mano quel nuovo software e conquistalo. Focus, concentrazione, pensiero logico lineare, organizza un passo alla volta, sii concreta, pianifica il grosso del carico mentale quando l'estrogeno è alto. Maggiore abilità numerica, fai conti o i compiti di matematica, soprattutto se non sono il tuo forte. Stamina, forza muscolare, resistenza, fame, sonno, freddo, via libera alle attività più impegnative del mese come traslochi, sport intensi, strapazzi. E in ultimo, maggiore tolleranza al dolore. Prenota in questi giorni, dentista, ceretta, e compagnia brutta. Naturalmente, come già detto, non siamo solo ormoni ovarici, ma un ecosistema. E prima di tutto, le nostre energie sono commensurate allo stato di salute dei cicli di sopravvivenza. Se dormi male, ad esempio, l'estrogeno ti tirerà un pochino su, ma i suoi effetti saranno annebbiati e sminuiti. Col sopraggiungere della fase ovulo, la cellula più grande di tutto il corpo umano, quella perla di ingegneria, è matura per essere fecondata. Secondo la matrice ciclica siamo giunti al terzo atto del nostro copione, come lo sono i polmoni pieni nel ciclo del respiro, il primo pomeriggio nel ciclo circadiano e l'estate nel ciclo delle quattro stagioni. Ecco, prendiamo ad esempio l'estate, quando i frutti sono belli, tondi e succosi, pronti per essere mangiati. E il nemico dei frutti cos'è? Il gelo. Se usi la matrice come un ponte per trasferire conoscenze, allora puoi già intuire che a ovulo il cinismo e la gente fredda non fanno per te. E darai il tuo meglio se ti fai pervadere dai e ti circondi di calore umano. All'ovulazione hai davvero un cocktail ormonale fatto tra gli altri di dopamina, serotonina, testosterone che non sono affini alla frammentazione sociale e alla sfiducia, ma vibrano in tutto il loro splendore se li pianti in un terreno che fa il caso loro. Questo significa più in generale che la ciclicità ti insegna quando e dove direzionare quali tipi di energie e che è davvero la capacità di valutare la realtà, perché la realtà è ciclica, non lineare. E se segui il suo ritmo, il risultato è migliore e si producono meno attriti. Tornando a testosterone, serotonina e dopamina, questo è un cocktail felicione che ti permette di compiere le imprese più audaci, di asserire la tua volontà con sana determinazione, di ottenere più facilmente ciò che desideri. Ci sono studi statunitensi che evidenziano come durante l'evoluzione le cameriere e le ballerine raddoppino e triplicano le mance. Questo incremento di mance era annullato in chi utilizzava gli anticoncezionali. Perciò ovulare ti dà questo vantaggio e tu, sorella mia, puoi usarlo per concretizzare i tuoi desideri e trovare il tuo posto nel mondo. Parole chiave di ovulo: splendere, affermare, manifestare, ma senza trascurare una pausa per condividere, assaporare, celebrare i piccoli e grandi successi. Amore, piacere, dolcezza, empatia, ottimismo o perfino sensazione di essere invincibile. Atti di cura per ovulo: agisci con coraggio per realizzare ciò che ti sta a cuore. Non perderti dietro a false chimere, idealizzazioni, resta incarnata profondamente nel tuo corpo, non segregarti nella mente e in falsi bisogni dettati dal marketing. Non tirare troppo la corda, ricordati che la sensazione di invincibilità gioca a tuo favore solo se mantieni una certa misura, se no, come spesso accade oggi con la civiltà umana, sfocia in megalomania, iperconsumismo e rapacità. La fase 4 del ciclo mestruale, detta anche progesto, è un test molto affilato e olistico, deputato a far sapere all'organismo se il suo corpo-mente, il suo contesto sociale, ambientale, politico sono a puntino, oppure presentano punti critici. A prescindere che si desideri una gravidanza o meno, questa è la fase migliore. È proprio la migliore amica che tutti vorremmo. Saggia, che vede e sente tutto. Onesta, se serve brutale. Leale. È il momento in cui viene fuori una forza immensa, incommensurabile, se paragonata a tutte le altre fasi. E infatti anche il metabolismo si alza, si consuma più energia e di conseguenza è normale avere più fame. Il metabolismo si alza e così la temperatura del corpo, questo fuoco interiore che si accende e che vuole essere usato come guida, è un dono che arriva dal lignaggio materno. L'ovulo da cui sei nata si è originato nell'utero della tua nonna materna. Proprio così. La tua prima cellula è nata nelle minuscole ovaie di mamma, quando lei era un feto di circa 3 mesi e mezzo dentro alla pancia di sua mamma. E siamo come matriosche. Vale la pena ora di soffermarci un attimo sul difficile rapporto che molte di noi hanno con se stesse e con il mondo in fase progesto. Iniziamo col dire che progesto attiva lo sguardo critico. Tuttavia, dal momento che la cultura in cui siamo immerse non ci ha insegnato a riconoscere e usare questo potere e allo stesso tempo ci ha cresciute per farci sentire sempre inadeguate, ecco, questo senso critico ci si ritorce contro e diventa quel fai schifo, sei brutta, hai sbagliato tutto, che tante di noi percepiscono in fase progesto. In realtà ci sta dicendo: questa cultura fa schifo, ti fa sentire brutta, è tutta sbagliata. Tu non devi assecondarla, se no sbagli, ribellati, perché ti imbruttisce dentro e fuori. In più ti riporto alla memoria che gli ormoni reagiscono al contesto sociale e ambientale in generale, e che se ti hanno fatto credere che un ormone ti farà stare male, è più facile che starai male. Quante volte hai sentito parlare male delle donne in premestruo? Io ho perso il conto. La fase progesto, in quanto fase 4, è come la bassa marea, rivela ciò che sta sotto. Il dolore fisico e la sofferenza psichica in fase progesto, che chiameremo disagio, non sono normali, bensì sono sentinelle e guide che ci avvertono di qualcosa che ha bisogno di essere trasformato in cura, consapevolezza, cambiamento. La matrice ci insegna che la fase 4 è la fase di test, quella che tira le somme al fine di proteggere, eliminare e così facendo migliorare. Nelle fasi di test è normale ed è giusto che vengano a galla le magagne, se esistono. Non tutte le imperfezioni vengano segnalate, bada, la perfezione non esiste in natura ed è certo che ci sarà sempre qualcosa che potrebbe andare meglio. La natura però è più saggia di così. A lei basta che tutto sommato vada bene. In altre parole, la fase progesto è disegnata per tirare le somme e suonare l'allarme se ce n'è bisogno, se ce n'è bisogno. Questo è l'aspetto chiave. La fase progesto non è programmata per rompere le scatole a prescindere così, per sport, voglio dire, Superman. Non è che vada in giro a menare la qualunque, se lo facesse sarebbe uno psicopatico. La fase 4 è una vecchia saggia, una donna medicina. Quindi dire che i disturbi premestruali sono fisiologici è perciò pericoloso e fuorviante, a meno che non si scriva la questione in una vera ottica ciclica e relativa, dove nulla è separato dal contesto e il contesto gioca un ruolo fondamentale. In altre parole, è fisiologico vomitare se ingerisci veleno. Il disagio premestruale e durante il ciclo mestruale in genere è fisiologico perché viviamo immersi e immerse nelle tossine ambientali e culturali, ma non è fisiologico in sé. Non fa parte del funzionamento del ciclo, così come il vomito non fa parte del funzionamento del sistema digerente quando tutto va bene. In conclusione, credo che Progesto sia la nostra donna medicina che risponde alle tossine culturali e ambientali del cazzocene. Neologismo. Neologismo per indicare la nostra era, l'era dell'antropocene. E chiamiamola allora epoca, era del cazzocene. E non solo perché qui è nato e proliferato il patriarcato, ma anche perché essa si basa sulla divisione e sulla separazione, sul cinismo, la violenza, l'indifferenza, sulla competizione costante. A chi ce l'ha più grosso, insomma, è su una fatale fallacia, una visione del mondo, un modo di vedere e intendere la realtà che è lineare, una linea che è stata tracciata per separare prima di tutto l'uomo dalla natura, la mente dal corpo, l'uomo dalla donna, la donna dalla propria libertà e dal potere interiore. Per 5 millenni siamo stati immersi e bloccati nel culto delle fasi 2 e 3 che prediligono la gratificazione istantanea, i risultati succosi e scintillanti a breve termine in cui ogni mezzo è giustificato dal fine, il guardare al proprio orticello e cazzo ce ne frega del resto. E dunque urrà alle fasi estro e ovulo e un grande bu a mestro e progesto. Vogliamo l'eterna primavera, sconfiggere la vecchiaia e dei bambini non ci importa davvero a conti fatti, se no i congedi sarebbero di un anno per tutti e due i genitori e alle casse del supermercato non ci sarebbe un bombardamento di dolci. Cazzo cene! È smania di conquista e di controllo. La supremazia della ragione, l'enfasi estrema sulla crescita personale, economica, di performance. La mestruazione, a differenza del sonno, non è rispettata dalla società, dalla cultura e nemmeno da chi ce l'ha spesso. Anzi, ci arrivano in continuazione sollecitazioni a fare ruote, buttarci dal paracadute, e fare finta che la mestruazione non esista. Ecco perché poi sul disagio che si prova diventa così facile e liberatorio usare l'appellativo sindrome. Pianto per una roba assurda, perché sono stanca, sfranta, rasa. Magari avrei pianto lo stesso per altre cose perché sono più sensibile e porosa del solito e in più il pianto mi viene più facile. È da quando sono piccola che posso utilizzarlo per esprimere rabbia, gioia, frustrazione, paura, confusione, stanchezza senza che nessuno abbia nulla da ridire. A parte dirmi che sono più bella quando rido. Come se fosse più importante rispetto all'essere presente a me stessa. Piango durante il mestruo come un insonne. piange, sono sfranta dall'eterna gara di far finta che non stia succedendo nulla, che non ci sia una parte del mio corpo, della mia carne viva che sta morendo, mi sta abbandonando, e con lei tutto il peso e tutte le gioie di un mese intero. Ho le antenne come a una ragnatela che sente tutto senza nemmeno il bisogno di vederlo. Sono sensibile, sono programmata per essere così, è funzionale. Durante il mestruo emergono ingiustizie e bellezze nascoste come di notte nei sogni, e ho bisogno di questo spazio e di questo tempo per rielaborarmi, rigenerarmi, come di notte quando il fluido spinale mi inonda, lava e irrora le mie sinapsi, le lacrime e questo sangue mi sciolgono e mi puliscono, mi aiutano a sentire tutto profondamente nelle viscere. Ma devo fare finta che tutto sia come al solito, devo snaturarmi, devo divorziare da me stessa, e questo mi fa piangere per una roba assurda, questo, non la mestruazione, il fare finta che non esista, questo mi allontana da me e dal mio centro, e il provare schifo e ribrezzo e vergogna verso una parte di me, questo, ecco perché piango per robe assurde durante il ciclo, che si chiama mestruazione, mannaggia, chiamandolo ciclo, non faccio altro che allontanarmi dalla verità e dall'ascolto, dalla comprensione. Se solo potessi vivermela liberamente, ecco che userei tutto questo mio potere per rigenerarmi, come tutti ci rigeneriamo ogni notte, e se non lo facciamo sbrocchiamo come sto sbroccando io. Se fossi libera di usare questo potere che risiede dentro al mio corpo e che mi connette con tutti i cicli vitali del pianeta e dei miei simili, ne trarrei gioia, conoscenza, salute. E potrei piangere le ingiustizie della vita invece che dell'unghia rotta. Piangere le ingiustizie le rimette al centro. Solo così possiamo risolverle. Io piango per salvare me stessa e il mondo. Anzi, lo farei se solo potessi mestruare in pace! Se solo fossi libera di godermi il mio ciclo così, come mi godo il mangiare, il dormire e il respirare. Dulcis in fundo. Desidero ardentemente sfatare un mito bello grosso, eh. Anche gli uomini hanno il ciclo! Sì! Sì! Anche loro. E ben una volta al giorno, anziché una al mese. Hanno fatto di tutto per scordarselo e ci sono anche riusciti, ma il loro ciclo continua ad esistere comunque. Temo infatti che spesso l'essere cicliche sia stato usato contro di noi per separarci da ciò che è logico e lineare. In altre parole, temo sia spesso usato come sinonimo di irrazionale, instabile, inaffidabile. In realtà la ciclicità è il modus operandi principale su cui si poggia la vita del pianeta. E se la nostra specie vuole sopravvivere ai guai che ha creato, dovrà tornare ad abbracciare la ciclicità. Va bene, lo so, ve lo state chiedendo. In che senso gli uomini hanno il ciclo? Beh, prima di tutto hanno anche loro il ciclo di 24 ore. Anche a loro i problemi la notte appaiono ingigantiti. Anche il loro ormone sessuale, il testosterone, ha un ciclo e gli effetti di questo ciclo sono simili agli effetti che il ciclo mestruale ha su di noi. E se non lo sentono è perché hanno i sensi ottenebrati. La cultura patriarcale ha fatto di tutto per separare l'uomo dalla natura e la mente dal corpo. Anche gli uomini sono vittime e la loro tragedia è che sono molto più inconsapevoli di noi. Spero che riprenda bene. Abbiamo perso una cabarextrista. Ecco. Ah, brava. Ho preso le copie. Esatto, perché allora inizio dicendovi che il testo, appunto, è, diciamo, sono degli estratti. In realtà non è, diciamo, letteralmente un testo scritto da Aisling, ma è appunto, sono degli estratti di questo testo che si chiama Questo è il ciclo ed ecologia mestruale di Anna Buzzoni, esatto. Giusto? Esatto. E quindi per iniziare ti direi se ti va di raccontarci appunto proprio come è nato questo testo, e sia da un punto di vista di scelta drammaturgica di scrittura che rispetto al tema, quindi il motivo anche per cui magari hai scelto proprio di parlare di questo. Allora, il motivo che mi ha portata ad entrare nel merito di questa tematica risale a un periodo in cui per un anno io non ho mestruato, perché, o almeno immagino, avendo preso la pillola per 10 anni, il mio corpo ha detto: ok, dobbiamo un attimino riprendere il giro. E quindi io ho iniziato ad informarmi, ma la verità è che quello che avete ascoltato stasera è nato da sé praticamente nel momento stesso in cui io ho letto i libri di testo, perché Anna Buzzoni ha il dono di portare queste tematiche con un grande fondamento scientifico ma con una scrittura estremamente brillante, ironica, che veramente è coinvolgente, tant'è vero che mentre io lo leggevo l'esigenza di farlo ad alta voce era molto forte, e poi ho preso coraggio e le ho scritto una mail. Questo a settembre più o meno del 2025, perché avevo intenzione di fare una lettura, che poi è stata la prima volta che ho fatto quella lettura, in occasione del Festival Eredità delle Donne, e sono riuscita ad organizzare questo reading più o meno simile a quello che avete sentito, e devo dire che tanto Anna quanto Mimesis, la casa editrice, sono stati estremamente generosi nel dirmi: fai, fai, vai. Interpreta. Vai, vai. E questa di fatto è la seconda volta che lo leggo a pubblico, quindi è tutto molto... È un piccolo feto. Ma tu hai mai scritto dei testi? O... Sì. Sì, sì, sì, sì. In questo caso appunto il mio apporto drammaturgico è proprio quello di aver selezionato e aver trovato un fil rouge che potesse avere un po' un contenuto che durasse più o meno 40 minuti. Ho anche dei miei testi, sì, assolutamente, che... come dicevamo prima insieme, ogni testo che mi sono trovata a scrivere ha una genesi completamente diversa, perché ogni volta l'esigenza è diversa, l'ispirazione è diversa, e per cui a volte prendi e scrivi tutto. Per esempio ho un testo che si chiama La giusta attesa, che ho scritto durante il periodo del Covid, e forse appunto l'ho scritto tutto in 3 giorni. Però forse Nome Omen non è ancora mai stato così, non ho ancora mai visto la luce. Altri invece che sono nati da collaborazioni, esempio Voce su tela, si trattava di mettere insieme un dialogo con una pittrice, per cui all'interno di uno schema di improvvisazione il mio testo era fisso, ma la mia interpretazione variava a seconda di quello che lei faceva sulla tela e anche dell'impianto di musicisti che avevo alle spalle, che andavano completamente improvvisando. E altri testi invece nati per contesti museali, per cui in rapporto con l'immagine, la fotografia, insomma ogni volta non ho un modus operandi mio, e la verità è che non mi reputo un'autrice, perché nella mia testa Aislinn è un'attrice, però ogni tanto la mano scappa. Comunque anche il prendere pezzi da un testo e portarli in scena e fare un po' questo taglia e cuce, comunque drammaturgia, cioè nel senso che alla per fine, certi versi sì, perché hai una visione, sì sì sì, e oltretutto assume poi una sua forma che prende anche corpo, diciamo, nella parola, nel modo in cui in cui lo porti in scena, perché poi cioè sono due testi, no, che hai preso? Sì. Okay. Sì, sì, sì, Ecologia mestruale e Questo è il ciclo, e poi ho scelto di tenere quel titolo lì. E comunque di base comunque la scrittura per il teatro, comunque per che viene messa in pubblico, molto spesso, cioè almeno molte delle drammaturghe che abbiamo accolto qua sono anche attrici, nascono come attrici, quindi è comunque un testo che diventa corpo nel momento in cui diventa voce, o comunque viene portato, sì, nello, sì, spazio, sì. Si incarna comunque la parola scritta, quindi anche avere una consapevolezza di che corpo prende a volte fa cambiare anche il modo in cui scriviamo, cioè in qualche modo anche il corpo è scrittura. Certo, sì, sì, sì, sì. Questa lettura, che ripeto, era la seconda volta che faccio, ed è completamente diversa da quando l'ho fatta a novembre. Vedi l'urlo incredibile che ho lanciato a un certo punto, che ho detto anche no, però nel senso, uno poi ogni volta lo attraversa, capisci cosa funziona, cosa non funziona, e, però appunto per me è molto importante dire, soprattutto con queste parole, che mi faccio letteralmente da canale, certo, di quello che è la ricerca di Anna, che è una personalità estremamente poliedrica, alla quale mi sento molto affine, sia per le sue ricerche che per le tematiche che le interessano, vale a dire la diseguaglianza sociale, l'ecologia. E poi tra l'altro, adesso ci tengo a dire, ha ricevuto grandissimo riconoscimento dalla SEAO Florence, che è una scuola per ostetriche, e pur non essendo operatrice sanitaria è citatissima lei, quindi spero davvero e mi auguro che questo dialogo possa portare avanti entrambi in un qualche modo in una direzione comune. Ti chiedevo della, se avessi scritto altri testi, perché appunto, come diceva Martina, sono tante le drammaturghe che abbiamo visto che appunto magari nella vita si definiscono prima di tutto attrici, e quindi mi interessava un po' capire da una parte il tuo approccio alla scrittura e anche che valore ha per te, nel senso che proprio perché diciamo forse un po' inconsciamente c'è questa gerarchia, no, di dire prima di tutto sono attrice, magari la drammaturgia la faccio più come, o magari è proprio legata in certi contesti, legata proprio all'esigenza di dover parlare di certe cose, e quindi magari c'è anche una spinta proprio tematica di voler raccontare qualcosa, per cui c'è anche un po' questa spinta creativa, e quindi mi interessava un po' capire, diciamo, come vivi tu su di te la drammaturgia, la scrittura, che valore ha anche per te come attrice prima di tutto e come drammaturga poi? Per me è assolutamente uno sfogo, è un po' come scrivere un diario. E sento un'esigenza, vedi, l'ho citato prima, la giusta attesa, nato in un periodo del Covid dove i teatranti non hanno avuto grande fortuna, ma vedevo poi nel mondo social, internet in generale, e anche lo capivo, questa grossissima esigenza di creare contenuti a quel punto, no? E quindi a volte mi sembrava troppo, e quindi mi dicevo perché non ce ne stiamo un po' nel sottotraccia? Perché non ce ne stiamo un po' un attimo in un'attesa senza dover per forza esserci? E lì è nata la giusta attesa. Adesso, insieme a due mie colleghe, invece, stiamo creando uno spettacolo che riguarda, si intitola Scarti, quindi anche lì il mondo di ciò che scartiamo, sia dal punto di vista fisico-materiale che anche emotivo, delle parti di noi che decidiamo di dimenticarci. E quella è una scrittura del tutto collettiva, per cui in scena io Silvia Fantoni e Marianna Federici a fare due personaggi, di cui adesso non do troppe anticipazioni, e io a fare solo la parte vocale live in voice over da fuori, per cui io guardando loro immagino cosa possa essere ciò che loro vogliono dire col corpo, ma è un dialogo continuo, per cui quella è totalmente collettiva come scrittura ed è tantissimo anche partitura fisica. Infatti anche leggendo un po' i tuoi studi, no? Leggevo che tu utilizzi molto anche il corpo, la voce, ma anche la danza, mi pare, no? Sì, ho fatto tanto danza, adesso non posso assolutamente definirmi ballerina, però chiaramente fa parte del mio vissuto e della memoria del mio corpo rimane. Ascoltando, riflettendo anche su quello che diceva Laura, rispetto alla scrittura femminile e al corpo, no? Perché si dice spesso, no, che la scrittura femminile è scrittura del corpo, sul corpo, con il corpo. Ho pensato anche a, adesso parlavamo, no, facciamo autore, attore, no? Perché ho pensato un po' a quanto le donne, o comunque la donna in passato, venisse scritta, cioè gli autori erano uomini e le donne erano corpo, quindi c'è stata un po' questa separazione che tende a dire che il pensiero è dell'uomo e quindi lui scrive, mentre la donna, e nel momento in cui poi c'è stata la riappropriazione un po' anche della scrittura da parte delle donne, le donne si scrivevano, cioè l'unica l'espressione era femminile, era più corporea, quindi poi secondo me è integrata ed è forse anche per quello che molte autrici sono anche attrici, perché lo strumento che è stato iniziato a essere usato è stato il corpo, poi quando posso mettere anche, posso anche dire la mia a livello di pensiero, allora parto dal corpo perché è quello che ho sempre utilizzato. Quindi credo che non è vero che, cioè anche chi l'attore, perché molto spesso ci sono delle autrici che si definiscono principalmente autrici, che quindi dicono: io prima scrivo in camera mia e poi lo metto nel corpo. C'è chi, ma adesso lo fanno anche gli uomini, quindi non separiamo, perché siamo, in realtà anche gli uomini sono ciclici, però questi ruoli poi sono stati dati. C'è anche questa cosa che ci sono delle, appunto, attrici, autrici, drammaturghe che partono dal corpo, tipo abbiamo avuto Paola Galassi, che lei diceva: io prima di scrivere faccio delle cose, no? E poi me le scrivo, perché è il corpo. Quindi è molto interessante vedere come, cioè, in realtà secondo me è scrittura anche provare a fare dei suoni con la voce, e poi dopo dico: cazzo, questo lo tengo, e allora me lo segno. Cioè, semplicemente è un modo diverso di registrare, quello di... Poi ovviamente ognuno ha il suo mezzo, il suo strumento che funziona meglio, ma secondo me tutto è corpo. Cioè, il pensiero, sì. Anche il corpo esprime un pensiero, quindi è semplicemente un... Sì, sì, ma poi è anche quello che ho detto io. Cioè, io, se penso a me, penso Ashlyn è attrice, ma sto settorializzando anche lì. Cioè, sto separando anche lì, quando la verità è che forse non è poi così necessario. Ma invece, rispetto al tema, appunto... Mi sembra che si possa dire che parlare di ciclo sia ancora un po' un tabù, no? E che non possiamo, cioè, che è sempre un po' usato anche un po' come un'arma a doppio taglio. E quindi mi chiedo, da una parte, cosa ne pensi tu in generale, se c'è una riflessione anche politica dietro all'atto che hai fatto stasera, o comunque della scelta di questo testo, e dall'altro un po'. Come dire, se c'è una tua, anche una tua idea di prospettiva rispetto a cosa ti immagini nel futuro, in questo senso, anche in qualche modo che impatto, cioè il senso in qualche modo di quello che, del portare un testo del genere, l'impatto che vorresti avere sul pubblico, sulle persone che ascoltano, se è solo una questione di sfatare un tabù o se c'è anche un intento di, insomma, diverso o più... Beh, certamente sì, è ancora tanto uno stigma, come abbiamo sentito nel testo, la parola mestro non è che ci piaccia tantissimo, però la verità è che ci sono un sacco di altre parole che non sono un granché belle, però meno stigmatizzate, e questa è una cosa, quindi... Però forse mi risuona di più come volontà mia, e anche esplorazione ed edizione per me è proprio stimolare tantissimo in chi mi ascolta l'esigenza di ascoltarsi, che è estremamente curativa. Questo forse ancora di più, cioè forse il mestro è un pretesto. Non lo so. Poi vabbè, mi piace anche divertirmi. Per esempio, adesso lavoro come cameriera in mezzo a gente molto folclorica di Vercelli, diciamo over 80, e... senza più maestro. Nina. E io passo davanti con l'assorbente, proprio perché mi interessa vedere che reazione. E cosa hai raccolto nella tua esperienza? Ma per ora solo occhiate, ma non credo rivolte all'assorbente. Certo. No, perché è interessante questa cosa, che ancora sia quasi un... Non so come dire, non so neanche più se è un tema di... Ci si vergogna del ciclo generalmente, no? Leggevo un libro che si chiama Il mostruoso femminile, in cui si parla di come il femminile nella narrativa cinematografica, narrativa in generale epica, eccetera, viene mostruosizzato, e poi andava a riprendere le credenze medievali, che gli uomini erano spaventati dal fatto che le donne perdessero così tanto sangue e non morissero, no? Quindi è una cosa e quindi alle donne bisognava stare lontano, cioè era una cosa tipo stregoneria, oddio. E quindi credo che sia un retaggio molto, cioè il rendere pauroso quasi questa cosa, e quindi doverla nascondere perché è una cosa da strega, una cosa, non lo so, magari sì, viene sì, anche vuoi, un po' da lì, no? Arriva... Se vuoi sminuire qualcuno devi dire che quello è il diavolo. Quindi noi abbiamo questa cosa che oddio, perdo sangue, no? Dramma. Invece wow, che magia, noi perdiamo sangue. No, poi è la magia della vita, cioè penso che poi di fatto sia anche invece che mostruoso, appunto il motivo grazie al quale portiamo avanti la specie. Però... Tra l'altro. comunque c'è anche appunto questo tema della ciclicità che mi... piaciuto molto perché abbiamo recentemente fatto anche un festival qui lento e c'è stata questa puntata che abbiamo fatto, cioè che ha fatto un altro ragazzo che tiene un podcast qui invitando una filosofa che parlava di Nietzsche e di questa idea della ciclicità del tempo che era molto interessante perché appunto noi siamo un po' abituate o abituati a vedere il tempo guardando al futuro come se fosse sì, no? Un'autostrada. È una cosa ignota e quindi di fatto brancoliamo nel non sapere, no? nella paura anche. E invece raccontava di come ci sono delle culture che invece riprendono, cioè come dire, parlano al futuro usando il tempo passato, perché in realtà soltanto grazie al fatto che riviviamo il passato noi possiamo esperire il futuro, cioè insomma andare avanti, portarci dietro l'esperienza che abbiamo. Che mi è piaciuto tantissimo come concetto anche di, cioè anche quando tu dici che la ciclicità di fatto è un po' la nostra risorsa vitale, a un certo punto lo dici nel testo, no? Cioè lo dice Anna. Sì. e non so, penso che sia un'idea molto interessante di, non so come dire, di visione della vita, cioè di... Anche un po' questa cosa che invece di là, cioè abbiamo anche sempre un po' questa idea che quello che viviamo va lasciato nel passato, ormai è andato, e quindi cioè non per svalorizzarlo, però come un qualcosa che non è più una risorsa. Invece... Esatto, invece è tutto un ecosistema fatto di cicli e di presente, passato e futuro. E il passato non va scartato assolutamente. Un aspetto che stiamo sondando adesso appunto nello spettacolo Scarti è questa necessità di vivere ciò che diventa passato come qualcosa che possa nutrire il presente se valorizzato nel modo più opportuno, come una foglia dell'albero che cade e però diventa nutrimento. Ed è traslabile il discorso in un qualche modo, credo. Sì, sì, no, assolutamente, infatti, cioè, non so, per me è stato, a parte una rivisitazione di Nietzsche che ho sempre odiato e invece ho avuto una specie di visione, però molto interessante che, diciamo, rientrava anche molto in quel momento lì, in quel momento di festival lento, un po' di questa anche, forse... prendersi una pausa nella vita e quando tu dici ascoltarsi, no? Cioè, quindi avere un po' questa concederselo. Concedersi questa capacità introspettiva che tra l'altro anche nel testo si dice, no? Un altro dei motivi per cui da donne viviamo male il ciclo è anche questa cosa dell'essere produttivi, no? Iperperformanti. Se non sei iperperformante in quei giorni, cioè tanto se ti alzi dal letto, vivi malissimo questa cosa, non puoi giustificarlo perché poi c'è questo senso di vergogna che non si può dire. Sì, beh, c'è vogliamo... anche il flip coin, nel senso che se tu dici... cioè, c'è stato un discorso una volta, sempre nel periodo Covid, perché vivevo con altre tre ragazze e parlavamo di ciclo e c'era appunto questa non un conflitto, però diciamo un po' chi diceva che non è vero che il ciclo mestruale va a creare dei disagi piuttosto che dei dolori, eccetera, eccetera. Ma perché arrivi al punto di negartelo in un qualche modo? Cioè dici no, ma io posso, cioè io sto bene, nel senso, vabbè, ho perso un po' di sangue, però sto bene, ma perché ti crescono dicendo che appunto la ruota, poi tu puoi fare tutto, metti l'assorbente giusto, paghi, a posto. sì, no, infatti, cioè invece appunto trovo molto bello anche questa cosa di riproporre, cioè nella lotta anche allo sfatamento, se è una parola non so, lo sfatare questo tabù del ciclo, penso che sia interessante anche questo aspetto di cioè imparare a prendersi del tempo per ascoltarsi, per capire i limiti del proprio corpo, per uscire appunto da questa ottica, come dire, di una sovrastruttura che ci impone di essere in un certo modo e invece cercare di imparare a dare quello che si può, ma per stare bene prima di tutto e non perché c'è un fine. Sì. O per accettare di stare anche male. Esatto. Cioè, sto male, ok. Sto lento. A posto. Sì, sono d'accordo. Anche cioè, quello che dicevi, no? Si accetta il sonno, ma il ciclo no. Cioè, io posso dormire, però non posso dire scusate, ho il ciclo, sto esatto. A casa. No, ma che cazzo c'hai? Dai, esci, hai il ciclo, ce l'hanno tutti, ok? Però nel senso ho bisogno, ma non solo nel ciclo, poi in tutto, no? Ci sono delle fasi in cui siamo. Cioè, perché dobbiamo sempre giustificare il fatto che non. Che è un momento in cui stiamo. Sì, oppure non siamo in fase di estroversione, ci possono essere anche, poi non so se sia sempre dovuto agli ormoni, ma magari è proprio una fase nostra interna, no? In cui sei più in raccoglimento, anche un po' come noi ignoriamo, ne parlavo forse inizio febbraio, faceva un freddo assurdo, c'era questa mia amica a casa mia, dovevamo uscire perché... E lei diceva, ma perché dobbiamo, cioè, perché dobbiamo uscire? Cioè fa freddo, la natura, tutti vanno in letargo, le foglie non ci sono negli alberi, noi dobbiamo uscire, perché ci sono le cose, cioè, questa cosa qua, no? Anche nella società, che bisogna per forza fare... Non... Sì, sì, sì, deriva anche tanto dall'omologazione, escono gli altri, esco anch'io. E in questo senso che cosa intendi con ecologia del corpo? Cioè nel testo se ne parla e quindi volevo un po' capire... Sì, allora... Cioè lo immagino, era uno sprint per fartelo dire. No, anch'io sto studiando questo testo, però appunto quando vado a leggermelo e rileggermelo è proprio vero, ecologia vuol dire... Appunto, siamo all'interno di un ecosistema in cui tutto influenza tutto, per cui parlando di ormoni, mettici dentro i pensieri intrusivi. Pensieri intrusivi cosa sono? Pensieri, sensazioni, però si trasformano in ormoni che possono essere cortisolo. Ed è bidirezionale la cosa. Oppure amo, cos'è l'amore? È un'emozione. Però sto amando qualcuno, mi metto accanto a questa persona, ossitocina. E quindi in questo senso è un tutt'uno che si influenza. Volevo dire... Ah sì, una cosa bellissima della natura, dei boschi, è quando un albero muore o viene tagliato, il tronco rimane vivo, perché tutto attorno fa in modo che rimanga vivo, anche se è segato. Ed è così che funzioniamo, è proprio così. Quando una persona sta male, mettendola proprio non solo nell'individuo, ma più persone, quando una persona sta male, c'è sempre qualcuno che è disposto a farla tornare su. E anche dentro di noi così. Non so se ci sono delle domande dal pubblico, riflessioni, condivisioni, no, nessuna coraggiosa curiosità. Se no, niente, no, volevo chiederti se appunto in questo senso, rispetto anche un po' alla storia che hai raccontato, dei testi che hai scritto, un po' del lavoro che hai fatto, tornando un po' più sul discorso del senso del teatro, no? E di insomma del tuo lavoro in qualche modo, che tipo di se senti una certa responsabilità, o appunto che magari può anche essere legata banalmente al testo che hai letto stasera, ai testi che hai scritto, alle performance che hai fatto, ma se senti di avere non so se identità è la parola giusta, però come dire, appunto, un senso di responsabilità forse verso il teatro, sì, verso il pubblico con cui comunichi. Sì, sì, sì, senz'altro. Quello, a volte quello che diciamo agli altri è quello che cerchi di dire a te stesso tutto il giorno, tutti i giorni. E forse mai come in questo periodo vai verso il tuo desiderio. E poi magari cambierà, anche perché appunto potrebbe manifestarsi. Però sì, forse mi sento molto responsabile verso me stessa e gli altri nel dire vai verso il tuo desiderio e poi la quadra si trova. Cioè, questo te lo chiedo perché so anche dalla tua bio che fai anche un lavoro educativo nel teatro, quindi non solo come attrice o drammaturga eccetera, ma appunto anche di insegnamento, e quindi mi chiedo se magari anche grazie a quell'esperienza e anche il contatto magari con piccini, sono primaria, sono proprio piccoli, quindi per lo più non fatevi male. Cioè, cioè se sono, cioè anche notando l'interesse da parte loro sull'approccio al teatro, cosa significa, come lo vivono. Sì, sì, so, guarda, te. Una cosa che ho imparato con i bambini di 8 anni soprattutto è più tu responsabilizzi loro, meno devi fare. Nel senso, gli dai il piano e diventa proprio tum tum tum tum e gli dai dei ruoli e loro fanno molto meglio di quanto potrei fare io, e puoi guardare e prendere appunti, e però sempre con la questione del desiderio, cosa hai voglia di fare, perché a volte i bambini poi fanno il corso di teatro ma non hanno nessuna voglia di stare sul palco e quindi qual è l'alternativa? Lo sa lui, non lo sai tu, lo scopriamo insieme. C'è un po' di maieutica, no? Per cui sì, c'è questa cosa del desiderio, credo, anche in quell'aspetto lì. Ma e desiderio intendi anche in questo senso un ascoltare quello che... Sì, sì, sì, assolutamente, nel qui e ora. Cosa desideri, cosa ti serve? Sei scomodo, non stai bene? Vabbè, non stai lì un attimo, desideri stare lì un attimo, stai lì un attimo, quando sei pronto torni, va bene. Scusa, non so se volevi per dire qualcosa. Mi fa ridere perché il testo prima si chiamava Desidera, però parlava del lato tossico del desiderio, cioè Black il Mirror. Dover per forza... avere un obiettivo e anche questa cosa qua. Ah beh, no, sì. Ma non dico che il tuo è questo, dico che è interessante vederlo da quest'altra prospettiva, e mi stavo chiedendo ma perché non invitiamo le drammaturghe a parlare anche nella puntata successiva magari. Beh, sarebbe interessante. Il tema, cioè, era che appunto in quest'altra drammaturgia che abbiamo portato era proprio più o meno un po' questo, comunque il fatto di quanto il nostro desiderio entra in conflitto con le aspettative della società, no? Quello che sì, dovrebbe, perché poi diventa megalomane il nostro desiderio, perché tu dovresti desiderare di... È l'intenzione che diventa megalomania poi, quindi anche per desiderare credo che sia molto importante ascoltarsi per desiderare, sì. E spesso siamo distratti da tutti questi stimoli o quello che appunto dovremmo essere, che non sappiamo più cosa dobbiamo desiderare e ci sentiamo strani perché e poi c'è troppa scelta e poi non sai più cosa vuoi e quindi diventa difficile desiderare, diventa quasi ansiogeno. Sì, cosa devo desiderare? Forse ascoltare proprio il vero desiderio, appunto non farsi influenzare da una sovrastruttura sul desiderio, cioè quindi appunto quello che diceva Martina. E quindi sì. Ascoltiamoci. Ascoltiamoci. Sì. E ascoltateci. Continuate. La nostra prossima puntata qual è? A marzo. Fine sì. Marzo. Claudia, ultimo giovedì di marzo. Perossini con Funambole. Salutatemela, ciao Claudia. Mi ha detto di salutarti. Vieni a vederla e a farne un sacco di domande. Quindi voi anche, ci rivediamo, spero presto in Exalge, se no a fine marzo. A fine marzo. Siamo a fine febbraio, vero? Sì, fine sì. Marzo. Il 19 marzo. Sicura? Sicura. 19 marzo. Questo dobbiamo studiarlo, Martina, ogni volta. Non 19 marzo per me è un ping pong adesso. Ultima volta, ogni volta. Va bene, grazie Asling. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie mille. A voi di essere venute e venuti. Grazie mille. Ci risentiamo su Radio Exalge.